Before listening to the next part of the dialogue, and another surprise, le parole e le espressioni nuove. Ascolti l'italiano, poi l'inglese e dopo ripeta. Controllare. To check. Controllare. Tutto. Everything. Tutto. Anche. Also. Anche. I soldi. The money. I soldi. Di chi è? Whose is it? Di chi è? Chi? Who? Chi? Sicuramente. Certainly. Sicuramente. As before, go back and review that new language until you're satisfied that you know it.